prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Questa settimana parliamo di legge, una legge che è stata recentemente approvata in via definitiva dalla Camera, proprio la settimana scorsa, il 25 maggio. Parliamo della riforma del terzo settore e dell'impresa sociale per la disciplina del servizio civile universale. La consulta ecclesiale degli organismi socioassistenziali, che è composta da CISM, CNCA, Conferenza Nazionale delle Misericordie, Coordinamento Enti, Associazioni di Volontariato Penitenziario, gruppi di volontariato vincenziano, CIF, Società San Vincenzo, MAC, UNEBA, ACISIF, Associazione Papa Giovanni XXIII, AVULS, USMI e Consulta Nazionale Fondazione Antiusura, ha espresso un complessivo apprezzamento per l'approvazione di questa legge delega al governo, riconoscendo in particolare la determinazione dell'iniziativa nel perseguire questo risultato, l'impegno col quale il Parlamento ha discusso e approfondito i contenuti del disegno di legge, prendendo anche atto della disponibilità dimostrata sia dal rappresentante del governo, che era il sottosegretario Bobba, sia dai relatori, l'onorevole Lenzi alla Camera e il senatore Lepri al Senato, per prendere in considerazione, anche su sollecitazione di organismi componenti della consulta ecclesiale, aspetti della riforma non chiari o addirittura controversi. Nel suo complesso e nelle sue linee generali, la riforma viene definita condivisibile perché colma una lacuna da tempo denunciata, anche se solo dopo l'emanazione dei numerosi decreti delegati attuativi potrà portare ad un più fondato e informato giudizio. Sin d'ora comunque la consulta e gli organismi che la compongono hanno dichiarato la propria disponibilità a collaborare con i competenti organi per quanto riguarda appunto tutti gli aspetti che possono essere ritenuti utili. Si riscontra una larga apertura ai fattori che possono agevolare l'accesso alle forme di finanziamento di attività di interesse generale, come la remunerazione del capitale e la possibilità di distribuzione degli utili, sulla scia delle scelte operate dalla legge di stabilità 2016 con le cosiddette società benefit, che è di per sé condivisibile, ampliando l'area dei soggetti impegnati in finalità di pubblico interesse. Queste realtà infatti verranno ad affiancare l'opera degli organismi del terzo settore, che secondo la corretta definizione data dalla riforma devono essere caratterizzati dal requisito essenziale della non lucratività soggettiva. Tuttavia, in questo quadro complessivo, la consulta esprime anche una preoccupazione, perché l'articolo 6 stabilisce che le imprese sociali, non solo associazioni e fondazioni ma anche SPA, SRL eccetera, sono di diritto componenti del terzo settore, che lo sono anche se adottano forme di remunerazione del capitale e distribuzione degli utili. È auspicabile dunque che in sede di definizione dei decreti attuativi non venga del tutto compromesso il principio di dono e anche il principio di gratuità, che devono sottostare al concetto di terzo settore, che caratterizzano la storia secolare delle opere con finalità generali e sociali propria dell'Italia e della nostra cultura. Vengono inoltre segnalati alcuni elementi di perplessità circa l'istituzione del registro unico del terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iscrizione sarà obbligatoria per gli enti che ricevono finanziamenti pubblici, fruiscono di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei, oppure esercitano attività in forma di accreditamento o convenzione. Dal momento che questa registrazione non ha valore costitutivo, dovrebbe essere sufficiente, come per la generalità delle persone giuridiche di cui si parla nel libro quinto del Codice Civile, l'iscrizione nel registro ottenuto dalla Camera di Commercio, che è con un registro pubblico e consultabile per via telematica. Dovrà comunque essere chiarito nei decreti delegati se questa registrazione nazionale sostituisce o si aggiunge rispetto alle registrazioni regionali e se per le imprese sociali rimanga l'obbligo della doppia registrazione. Anche sotto questo aspetto si conferma l'impressione di una sorta di diffidenza verso le iniziative liberamente assunte dai cittadini con finalità di interesse generali, per cui viene sempre previsto un passaggio governativo. Per quanto riguarda il volontariato, i criteri e i principi generali riflettono molte delle questioni da più parti sollevate, anche per questo occorre aspettare l'emanazione dei decreti delegati. Tuttavia, altro aspetto che suscita perplessità è la scelta di trasformare i centri di servizio per il volontariato in centri di servizio per il volontariato e il terzo settore, unificando due realtà estremamente diverse sotto tutti i profili. Va evitato il rischio che il volontariato diventi minoritario rispetto alle associazioni, le fondazioni e le istituzioni di terzo settore, che hanno invece di norma struttura, potenzialità economiche e bacino di utenti più consolidati. Ulteriore perplessità viene suscitata da una disposizione di questa legge che prevede che gli eventuali emolumenti, cioè gli stipendi, di amministratori e dirigenti dei centri di servizio vengono posti a carico delle fondazioni bancarie in forma aggiuntiva rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge 266 del 91, con rischio di compromettere la loro autonomia nei riguardi degli enti finanziatori. La consulta ecclesiale comunque conferma la valutazione di complessivo apprezzamento della riforma, ma auspica che in sede di emanazione dei decreti legislativi previsti si possa tener conto di queste osservazioni, ma anche di altre indicazioni già esposte, riaffermando la propria disponibilità a ogni utile collaborazione. Questo come presa di posizione, appunto, ve ne abbiamo dato conto dal sito caritas.it per quanto riguarda la riforma del terzo settore. Giudizio buono, ma ancora c'è molto da fare. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.